Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Oggi è il giorno del Nobel per la letteratura, a momenti arriverà l'annuncio, ve lo daremo naturalmente in diretta. Pochi laureati e poco preparati, ritratto impietoso dell'Ocse sull'Italia. Stupro sugli scogli a Napoli, arrestati 3 minorenni dopo 4 mesi di indagini. Lavoriamo per riportare Battisti in Italia, dice Alfano dopo l'arresto dell'ex terrorista. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Dall'altra parte del vetro oggi Laura Faggine, Giulia Lauricella, in assistenza in redazione Andrea Roccabella in regia, e forse possiamo andare subito a sentire che cosa sta succedendo, le notizie che arrivano dall'Accademia di Svezia, dove c'è ieri per il Nobel per la chimica, erano 4 gatti ad aspettare l'annuncio, adesso c'è una folla di giornalisti per il Nobel per la letteratura. Skenbara hemhörighet i världen. I potenti mezzi di Radio 24 al momento non ci consentono di avere il traduttore dallo svedese, però vediamo un attimo che cosa riusciamo a capire. The English writer Kazuo Ishiguro, who in novels of great emotional force has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world. Le prix Nobel de littérature 2017 est décerné à l'écrivain Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro è il nome del vincitore del Nobel per la letteratura. Maggiori approfondimenti naturalmente ve li daremo tra poco con la nostra Alessandra Tedesco, che ci raggiungerà in diretta e ci racconterà qualcosa di più. Veniamo dunque al rapporto dell'Ocse presentato questa mattina sui laureati italiani. Sentiamo. Pochi laureati, poco preparati e male impiegati, spesso anche bistrattati e di conseguenza frustrati. Insomma, un quadro preoccupante, quello dipinto dall'Ocse, che individua la maggiore criticità del nostro paese proprio nell'area delle competenze. Quelle dei lavoratori italiani sono troppo basse, soprattutto tra gli anziani e al sud. E i laureati, oltre ad essere pochi, siamo sotto la media Ocse di 10 punti percentuali, una volta impiegati nel mondo del lavoro, vengono spesso relegati a lavori di routine. Ma esiste anche un paradosso. C'è un 18% di lavoratori sovraqualificati, mentre il 35% è occupato in settori non correlati con il proprio titolo di studio. Insomma, una cosa è certa, università e mondo del lavoro non dialogano, tant'è che l'Ocse bacchetta sia l'uno che l'altro. Ma ci sono anche buone notizie. Sul terreno dell'economia, infatti, si registrano cambiamenti, complice anche il cammino delle riforme intrapreso negli ultimi anni, compreso il Jobs Act, anche il Gurria, segretario Ocse. Le riforme attuate in Italia hanno già consentito di creare circa... Evidentemente abbiamo un problema tecnico con il servizio di Alessandra Schepisi, riusciamo a recuperarlo in qualche modo o no? Non riusciamo. Andrea Roccabella ci dice che evidentemente c'è stato qualche problema tecnico col servizio di Alessandra Schepisi. Va bene, andiamo a parlare invece dell'economia italiana a questo punto, perché l'Istat dice che in un quadro economico internazionale favorevole si rafforza la crescita dell'economia italiana, sostenuta dal settore manifatturiero e dagli investimenti. Tutto questo nella nota mensile sull'andamento che anticipa le tendenze dell'economia italiana. Prosegue il miglioramento dell'occupazione, scrive Istat, che interessa anche i giovani e le donne. Della manovra e non solo di quella è tornato a parlare il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, intervenuto tra l'altro proprio all'appuntamento dell'Ocse. Sentiamo. L'Italia ha un bisogno di ulteriormente rafforzare la sua capacità di crescita, di renderla stabile e sostenibile, di renderla diffusa, di dare sostanza al concetto di crescita inclusiva, quindi questo deve essere un principio che guida le misure di bilancio di cui ci stiamo ovviamente impegnando in queste ore, in questi giorni. Ci deve essere una multidimensionalità, le risorse sono limitate, lo ripeterò continuamente perché questo è il dovere di un ministro delle finanze che ha di fronte a sé un bilancio che deve essere ulteriormente consolidato, ma in cui ci sono margini importanti che vanno usati con oculatezza e vanno collegati alla prospettiva di medio termine. La cronaca italiana, arrestati 3 minorenni per uno stupro avvenuto mesi fa a Napoli. Oggi va così, abbiamo una serie di problemi tecnici che riguardano evidentemente i nostri servizi. Vediamo invece se siamo in grado di andare in Calabria per un'operazione che ha coinvolto anche l'ex sindaco di Villa San Giovanni. Ci riusciamo? Ci sono anche il boss Gioacchino Piromalli e l'imprenditore ed ex sindaco di Villa San Giovanni Rocco Lavalle tra i fermati dell'operazione Metauros, seguita da polizia e carabinieri e coordinata dalla DDA di Reggio Calabria. In tutto 7 le persone coinvolte accusate di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni. L'inchiesta svela il condizionamento della cosca d'Indrangheta dei Piromalli nella costruzione e gestione dell'unico termovalorizzatore calabrese, quello di Gioia Tauro, attraverso estorsioni e intimidazioni. Stessa sorte è toccata anche ad una società operante nel settore della depurazione delle acque. Al centro degli affari illeciti ci sarebbe stato Giuseppe Luppino, consulente esterno dell'ufficio legale del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Calabria e politico di riferimento dei Piromalli. La DDA Regina ha anche disposto il sequestro delle quote azionarie di diverse società operanti nel settore della depurazione e trasporto di rifiuti. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Siamo alla politica italiana con due argomenti al centro della scena: da una parte quello che accade a sinistra del Partito Democratico, dall'altra la questione dello Ius Soli, che vede un intervento di peso, quello del ministro Delrio. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, diciamo che dopo lo strappo di MDP sul DEF adesso si guarda allo Ius Soli, e a sinistra ovviamente questa è una legge che vogliono che sia approvata, e allora ad aderire allo sciopero della fame per lo Ius Soli anche il ministro Graziano Delrio. Dopo tante parole urlate sullo Ius Soli è giunto il momento della riflessione, è tempo di parlare con gesti, di far capire alla gente in modo mite e non violento, dice Delrio, che crede ancora la legge possa essere approvata finché c'è legislatura, c'è speranza. Alcuni insegnanti hanno proposto la sensibilizzazione su questa situazione e che si trovano a vivere molti loro studenti. Ricordiamo che stanno scioperando alcuni parlamentari, sottosegretari Benedetto Della Vedova e Angelo Rughetti, parlamentari Luigi Manconi, Elena Ferrara e Paolo Corsini, e alla proposta appunto hanno aderito molti parlamentari e insegnanti. Però c'è Massimiliano Fedriga della Lega Nord, capogruppo alla Camera, che boccia quello che sta facendo Delrio. Non si è mai visto che un ministro del partito di maggioranza faccia lo sciopero della fame per qualcosa che non fa il governo di cui lui stesso è rappresentante. Stiamo al ridicolo preelettorale. A te, Simone. Grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. E a proposito di migranti, a proposito di minori migranti, c'è quello che racconta Medici Senza Frontiere dalla Serbia, dove denuncia le violenze perpetrate dalle autorità della polizia di frontiera degli stati membri europei ai confini appunto della Serbia con l'Ungheria, la Bulgaria e la Croazia. Minori migranti picchiati, umiliati e fatti inseguire dai cani. Il racconto di Andrea Contenta, responsabile affari umanitari di Medici Senza Frontiere, proprio in Serbia, al microfono di Valentina Furlanetto. Il 92% dei minori che è stato visitato dagli psicologi di Medici Senza Frontiere nei primi 6 mesi del 2017 continua a denunciare le polizie di frontiera di 3 paesi europei, prima di tutto la Bulgaria, però anche la Croazia e l'Ungheria. Quello che Medici Senza Frontiere continua a vedere sul campo sono brutalità e violenze. Ci sono persone che vengono puntualmente picchiate con bastoni, ma allo stesso tempo morte da cani, o hanno irritazioni di spray orticanti. È un anno che continuiamo a ripetere che la rotta dei Balcani è chiusa. Ci sono ancora migliaia di persone bloccate nei Balcani. E questo il racconto al microfono di Valentina Furlanetto di Medici Senza Frontiere, appunto dalla frontiera con la Serbia. Siamo alla Catalogna, gli aggiornamenti di oggi. Un sol poble che fa pigna alla difesa. E ancora forte l'eco delle parole pronunciate dal presidente catalano Puigdemont ieri sera. Il leader di Podemos, Pablo Iglesias, ha ribadito l'impegno del suo partito per favorire una mediazione tra il governo spagnolo e quello catalano, in nome di un ritorno alla pace e alla convivenza civile in Catalogna. Albert Rivera di Ciudadanos ha invece definito imprudente il fatto che non sia stato ancora applicato l'articolo 155 della Costituzione per convocare nuove elezioni in Catalogna a fronte della concreta possibilità che lunedì prossimo venga dichiarata l'indipendenza della regione. Proprio riguardo ad una possibile dichiarazione di indipendenza è intervenuta stamani la presidente del Parlamento catalano Carme Forcadell, che ha ribadito come la sessione plenaria straordinaria prevista per lunedì avrà lo scopo di discutere i risultati del referendum in ottemperanza a quanto disposto dall'omonima legge, senza però rivelare se la Catalogna si convertirà effettivamente in uno Stato indipendente all'inizio della prossima settimana. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona. Scadrà il prossimo 3 novembre la delega al governo per la riforma delle intercettazioni. È un tema delicato e lo sapete benissimo. Sarà uno degli aspetti dei quali il ministro della giustizia Andrea Orlando parlerà oggi nell'incontro organizzato qui al Sole 24 Ore, il racconto della giustizia che cambia. È un incontro tra il guardasigilli e i vertici delle procure di Milano e Roma, organizzato per i 10 anni della nostra trasmissione, della trasmissione della nostra Raffaella Calandra Storiacce. Così lo stesso ministro Orlando anticipava un punto della riforma delle intercettazioni, proprio Raffaella Calandra. Il decreto spingerà molto sulla riduzione del rischio, cioè sulla diminuzione della mole delle intercettazioni prodotte, allo scopo di appunto consentire uno sforzo più grande da parte dei magistrati inquirenti di ripulitura dei materiali, distinguendo ciò che è penalmente rilevante da ciò che non lo è. Sono emerse delle soluzioni che possono portare a consentire al PM un controllo più stringente anche dell'attività che inizialmente viene fatta dalla polizia giudiziaria. Io non farei della vicenda Consip il paradigma di un modo di fare le indagini. Credo che sia in termini generali giusto che si possa verificare se l'attività svolta dalla polizia giudiziaria è stata congrua. Pensiamo a una sorta di doppio brogliaccio uno dei quali riservato sulla base del quale il PM può andare a vedere che cosa c'è di utile. Cioè un doppio brogliaccio, uno integrale e uno con la selezione fatta dalla polizia giudiziaria? Uno con un richiamo del materiale che è stato espunto, sulla base del quale il PM può andare a verificare come è stata fatta la selezione, se eventualmente ci sia qualcosa che può essere utile. Così dunque Orlando, potete seguire l'incontro con i procuratori Pignatone, Greco, Boccassini, Prestipino e appunto il Ministro della Giustizia a partire dalle 15.30 in streaming sul sito del Sole 24 Ore. A proposito di streaming, vi abbiamo fatto sentire prima in streaming l'annuncio del Nobel per la letteratura, andiamo a parlarne, a approfondire un po' adesso perché ci si aspettava, Alessandra Tedesco, ciao, buongiorno, un nome giapponese, ma non questo. Non questo esattamente, perché il Nobel per la letteratura 2017, lo ricordiamo, è andato a Kazuo Ishiguro, lo chiamo esattamente così come lui si firma, perché è un giapponese naturalizzato inglese, però sai che i giapponesi, anche Murakami Haruki, si firma al contrario, quindi il cognome prima e il nome dopo. Tutti dicevano Murakami e invece no, è arrivato quest'altro giapponese. Sì, è nato in Giappone, ma praticamente quando aveva 6 anni si è trasferito in Gran Bretagna con i suoi genitori. Lui ripete spesso che ha ricevuto un'educazione giapponese anche in famiglia, anche se è cresciuto naturalmente in un contesto assolutamente occidentale ed europeo come quello inglese. E quando qualcuno gli chiede, dice, ma insomma tu ti senti più giapponese o inglese? Dice, come si fa a rispondere a questa domanda? È assolutamente tutto un mix di entrambe le cose. Certo, tanto che il suo successo più famoso ha prodotto tra l'altro un film, ed è per questo probabilmente molti ascoltatori lo ricorderanno, che più inglese non si può, che è Quel che resta del giorno. Quel che resta del giorno, tra l'altro lui scrive in inglese, anche se, ripeto, ci tiene a firmarsi sui libri che in Italia sono pubblicati quasi tutti da Einaudi, con il cognome e poi il nome, però lui scrive in inglese, ha scritto un romanzo ambientato in Gran Bretagna come Quel che resta del giorno. Naturalmente ci sono anche altri titoli, ricordo che lui aveva vinto anche la Man Booker Prize, che è un premio molto prestigioso per gli scrittori di lingua anglosassone, sempre con Quel che resta del giorno, credo nell'89 l'aveva vinto. Poi ci sono altri romanzi pubblicati in Italia come Non lasciarmi, che tra l'altro è stato ripubblicato da poco, Il gigante sepolto, Gli inconsolabili. Però sicuramente quando si parla di Ishiguro Kazuo uno pensa a Quel che resta del giorno. Chiaramente a Quel che resta del giorno. Grazie intanto ad Alessandra Tedesco per questo approfondimento su chi ha vinto il Nobel per la letteratura quest'anno. Adesso, prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, parliamo di una giornata internazionale importante. È la giornata internazionale, o meglio la giornata nazionale, scusate, dello sport paralimpico, manifestazioni e iniziative previste in tutta Italia per permettere a tutti di conoscere sport e protagonisti, appunto. Dario Ricci ha intervistato Oscar De Pellegrin, plurimedagliato paralimpico e portabandiera azzurra alle Olimpiadi di Londra 2012. Il Comitato Paralimpico è impegnato su tantissimi fronti, ma quello che mi compete di più, e poi credo che sia ancora quello fondamentale, è quello proprio di andare nelle unità spinali, nei centri riabilitativi, a proporre l'attività sportiva proprio come percorso riabilitativo all'interno di questi centri, perché questi ragazzi che nel momento, insomma, dove, come ho avuto io, incontrano il destino che gli cambia completamente la vita, lo sport può essere veramente un grandissimo fattore motivazionale di riscoprire delle abilità e magari di vedere anche un futuro. Dopo, se diventeranno campioni, sicuramente noi saremo contentissimi, però l'importante, ecco, è dare le nostre esperienze perché lo sport li possa aiutare. Questa è proprio la volontà, la finalità del nostro movimento paralimpico. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi iniziamo il nostro giro d'Italia, il nostro tour per l'Italia. Andremo a Pozzallo, dove il sindaco ha manifestato qualche preoccupazione in merito ai continui sbarchi, soprattutto di immigrati dalla Tunisia, perché là c'è un problema che abbiamo sottolineato più di una volta e che è un po' un'assurdità, se volete. Nel momento nel quale si decide l'espulsione di una persona che viene da un paese con il quale non hai un accordo per il rimpatrio, che cosa succede? Gli viene dato il foglio di via e gli dicono e gli viene detto: entro un paio di settimane devi lasciare il paese. Ovviamente gente che scompare nei meandri non solo dell'Italia ma presumibilmente dell'Europa. E poi una vicenda che ha a che fare col tasso alcolemico nel sangue quando si guida, perché c'è un motociclista che andava senza casco, contromano e con un tasso alcolemico che è più o meno il triplo di quello consentito e che è stato completamente assolto. Ne parliamo tra un attimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e sempre in diretta video anche sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina Facebook di Radio 24 e anche là, se volete, potete commentare. Nella prima parte della trasmissione abbiamo lungamente parlato, e lo avete sentito, del Nobel per la letteratura arrivato oggi, del rapporto dell'OCSE, anche se abbiamo avuto qualche problema col servizio, che comunque in sintesi, per dirla con un titolo, dice che in Italia ci sono pochi laureati, poco preparati e in più quei pochi preparati che ci sono vengono bistrattati. Ci siamo occupati anche di un'operazione contro la criminalità organizzata in Calabria che ha colpito un ex sindaco di un paese della zona, di politica e del trattamento violento che viene riservato ai minori immigrati al confine con la Serbia. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia e lo iniziamo parlando di una vicenda che ha a che fare con codice della strada e non solamente con quello, forse anche con chi gira sulle nostre strade, ed è una vicenda che ha a che fare col tasso alcolemico, come si diceva poco fa. Arriva dai dintorni di Bologna, riguarda un motociclista che viene pescato mentre va senza casco e contromano. I poliziotti lo fermano, si accorgono che puzza di alcol innanzitutto e all'aria chiaramente alterata, aspettano un po', fanno qualche misurazione perché non hanno gli strumenti là e quando lo misurano scoprono che è tre volte quello che sarebbe il consentito. Abbiamo in linea, abbiamo in studio con noi Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Maurizio, ciao, buongiorno. Buongiorno. Che ti occupi spesso di questi argomenti che hanno a che fare con il codice della strada. Succede però che alla fine il giudice l'ha assolto, cioè come se non fosse successo niente, Maurizio. Sì, diciamo la cosa è meno strana di quello che sembra, perché queste misurazioni sono state effettuate circa un paio d'ore minimo dopo che questo guidatore aveva bevuto. Allora cosa succede? Sono state effettuate con un etilometro che evidentemente non era disponibile nell'immediatezza quando questa persona è stata fermata, e allora l'etilometro ha già qualche problemino suo di attendibilità, ma è un problemino intrinseco, non riguarda tanto le revisioni delle letterature che vengono fatte periodicamente, sulle quali pure lì ci sono delle difficoltà. È un problema proprio intrinseco, perché l'etilometro cosa fa? Presume il tasso di alcol che noi abbiamo nel sangue, perché è quello che legalmente probabilmente sì. fa fede, lo presume in base all'alcol che noi abbiamo nel fiato. Per farlo deve fare un'operazione di conversione, lo fa con un fattore fisso, però il problema è che il fattore fisso non è uguale per tutti gli esseri umani. Certo. Il mio probabilmente è diverso dal tuo, quindi è una presunzione. Però quello che dico è che un uno e mezzo no, di alcol nel sangue, sì. Cavoli. Certo, però diciamo che lì la polizia doveva agire, a mio giudizio, in modo diverso. Ossia, la Cassazione ha detto più volte, ed è un principio pacifico, che se un agente ha la sensazione fondata che uno sia ubriaco, ebro, scrive su un verbale che quali sono i sintomi che ha, quindi non c'è bisogno dell'etilometro per punire uno per guida in stato di ebbrezza. L'unica controindicazione di questo è che in questo modo non si può applicargli tutte le sanzioni possibili, cioè per capirci, questa persona, questo motociclista era stato pescato appunto oltre il triplo del tasso alcolemico consentito. Questo significa fargli le sanzioni più grandi, tra cui la confisca del veicolo, confisca, badate bene, e quindi mentre invece nel cosiddetto accertamento sintomatico, che è quello che fa la gente semplicemente guardando i sintomi, sì. appunto, si può avere solo una sanzione amministrativa, che comunque è sul migliaio di euro, si perdono 10 punti, la patente viene sospesa lo stesso, non è comunque leggera, sì. è più leggera, però voglio dire meglio questa sanzione intermedia che proprio nulla. E invece in questo caso nulla, sostanzialmente. Assolutamente nulla. Avrà tirato un bel sospiro di sollievo. Sì. Grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore per averci aiutato a spiegare un po' di cose di questa vicenda che ci aveva incuriosito. Avevamo in qualche modo pensato che il giudice fosse stato un po' troppo garantista, ma evidentemente non è stato così. Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Nei giorni scorsi ha lanciato un allarme, anche scritto se non sbaglio, al ministro dell'interno Marco Minniti, dicendogli sostanzialmente che il rischio che con gli sbarchi che stanno avvenendo in questo periodo, soprattutto dalla Tunisia, arrivino degli jihadisti. Su che base lo ha detto? Io non l'ho scritto e non l'ho detto queste cose, io ho lanciato un altro tipo di allarme. Che è questo. Da qualche settimana a questa parte è cambiata la composizione sociale degli arrivi degli immigrati clandestini. Mentre nel passato si assisteva agli arrivi che riguardavano donne e bambini disperati di guerra, disperati dalla miseria, dalla povertà e dalla fame, e oggi invece abbiamo un tipo di immigrati che sono dei giovani, un po' esuberanti, un po' goliardici, un po' maleducati, che ci preoccupano un poco, perché leggiamo un po' tutti i mezzi di informazione, sappiamo che la gioventù in Tunisia in questo momento sta vivendo momenti molto complicati e difficili, sì. anche perché quando poi in giro per la città ci sono questo tipo di giovani non può non esserci un po' di preoccupazione, ma ho fatto questa segnalazione non perché noi siamo intolleranti, razzisti, tutt'altra cosa, noi siamo un paese completamente al contrario di quello che si può pensare. Noi in questi anni abbiamo avuto... Non potrebbe essere diversamente, visto che praticamente sbarca da voi un numero enorme di migranti ogni anno. Quanti sono ad oggi? Ad oggi quest'anno. Non abbiamo fatto i conti, ma l'anno scorso sono stati, non lo so, 15.000, 20.000, insomma, 20.000. Parliamo di diverse migliaia di immigrati. Ora sono di meno, sono di meno, però abbiamo questa tipologia di migranti. Una caratteristica diversa. Tra l'altro, sindaco, c'è questo problema che noi torniamo a sottolineare ogni volta, perché ci sembra per certi versi una sorta di assurdo giuridico, quello per il quale, appunto, con un paese come nel caso della Tunisia non hai un accordo specifico per il rimpatrio, e queste persone vengono giudicate irregolari sul nostro territorio, prendono un foglio di via e gli viene detto hai 15 giorni per lasciare il paese e punto, poi spariscono ovviamente all'interno del nostro paese, all'interno dell'Italia, no? Ecco, la preoccupazione era proprio questa, ma io gli dico anche qualcosa di più. Quando questo foglio di via gli viene dato in ore serali, E queste persone non hanno la possibilità di prendere un autobus, di prendere un treno, di potersi allontanare, e quindi vanno a girovagare per la città, e tutto questo crea un po' di preoccupazione fra i cittadini. Ripeto ancora una volta, non si sono mai avuti episodi di razzismo, di intolleranza nella nostra città, ma noi abbiamo il dovere di segnalare queste cose alle autorità che contano e soprattutto fare opera di prevenzione. Cosa chiede a Minniti? A Minniti quello che io chiedo è una maggiore capacità di ascolto con le istituzioni. Non si può essere, e Minniti è un grande ministro degli interni, uno forse dei più grandi che noi abbiamo avuto dal dopoguerra ad oggi, questo lo voglio sottolineare, però non si può essere solidali a parole. Bisogna essere solidali anche con i fatti, sì. E quindi avere vicino le istituzioni con i fatti per noi. Ma cosa volete, uomini? Cosa volete, uomini a Matone? No, noi non vogliamo uomini. Noi quello che vogliamo è che abbiamo dei problemi in questa città, sì. Che dalle istituzioni che contano devono essere affrontati e trattati con molta correttezza. Vuole che gli faccia un esempio? Noi abbiamo una grande struttura commerciale e portuale che ormai è troppo piccola per i traffici che noi stiamo affrontando. Certe volte nelle operazioni di sbarco degli immigrati questa operazione commerciale si rallenta. Occorre ampliare le banchine di questa struttura portuale. Sì. Stiamo preparando quindi un progetto. Soldi a Matura. Non la metta in questo modo. Non la metto in questo modo. Però, glielo spiego quello che credo. Soprattutto una maggiore correttezza da parte delle istituzioni. Ma mi scusi, guardi che non è che c'è. Non c'è nulla di male. Voi sopportate. Amatore, dico questo. Voi sopportate un carico che è superiore ad altri porti, per esempio, per il numero di migranti che arriva. Così come ci sono quelli che ricevono le compensazioni perché gli costruiscono l'autostrada accanto o gli fanno il tunnel anche dell'alta velocità e voi chiedete una compensazione di tipo economico per questa cosa. Ci sta, delitto. Non fa mai ecco. male, gliel'ho detto io, non fa mai male. Per esempio, per un comune, i comuni sono tutti in crisi di liquidità e così. Io quello che chiedo è qualcosa forse di più nobile, una maggiore correttezza da parte dell'istituzione. Per esempio, quando noi presentiamo un progetto, non farci perdere per ampliare il porto, non farci perdere mesi, anni con atteggiamenti ostruzionistici che veramente fanno rabbia. Sì. Allora, noi svolgiamo questa funzione, vogliamo uguale correttezza da parte delle istituzioni. Nell'affrontare i temi di una città che svolge un compito importantissimo. Certo. La ringrazio, grazie Roberto Amatuna, sindaco di Pozzallo, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Chiaramente ci ritroviamo tra un attimo, dopo ovviamente la pausa, ci risentiamo come sempre per i mercati e subito dopo verremo a parlare di quello che è successo a Milano. La vicenda ormai la conoscerete, c'è stata una persona che ha usato una violenza sessuale nei confronti di una bambina di 6 anni, un pedofilo, è stato arrestato, è stato fermato. Le notizie che sono emerse nelle scorse ore ci hanno raccontato che questo uomo aveva già scontato una condanna di 4 anni nel carcere di Bollate per reati correlati a questa cosa, corruzione di minorenne, tentativo di induzione alla prostituzione di minorenni. Ha seguito un percorso per uscire da questo schema ed evidentemente questo percorso non ha funzionato. Allora, forse qualche domanda c'è da farsela tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Il Nobel per la letteratura va a Kazuo Ishiguro, un autore giapponese naturalizzato britannico, l'autore di Quel che resta del giorno. Pochi laureati e poco preparati, ritratto impietoso dell'Ocse sull'Italia. Stupro sugli scogli a Napoli, arrestati 3 minorenni dopo 4 mesi di indagini. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo per parlare di una vicenda della quale, insomma, nei giorni scorsi vi abbiamo fatto la cronaca. La vicenda è questa, di un uomo del quale poi è stata diffusa la foto, è stato diffuso addirittura il video che la polizia di Milano, che le forze dell'ordine di Milano sospettavano essere il pedofilo che ha colpito facendo subire una violenza sessuale ad una bambina cinese nel quartiere, nella zona di via Paolo Sarpi. Ebbene, quest'uomo si è appreso nelle scorse ore, come già vi dicevo prima, era stato già in carcere per reati in qualche modo connessi a tutto questo. C'era un'induzione alla prostituzione minorile, c'era dall'altra parte un tentativo di corruzione di minore, ed era stato in carcere dove aveva seguito un percorso di riabilitazione. Siamo in linea con Paolo Giulini, che è un criminologo clinico che lavora al Centro Italiano di Mediazione Penale e ha lavorato tra l'altro anche nel carcere di Bollate. Giulini, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Quello che vorrei capire da lei innanzitutto è come funzionano questi percorsi, perché ci sembra evidente da quello che è successo che qualcosa appunto non ha funzionato a tutti gli effetti. Guardi, nell'ambito della presa in carico degli autori di reati sessuali, noi abbiamo un paese che si è attrezzato nel 1996-98 con delle leggi importanti per quanto riguarda l'aggravio delle pene per queste condotte, per cui estremamente a risposta punitiva o retributiva, che in un certo senso hanno l'effetto di portare queste persone finalmente in un regime detentivo di controllo e di contenimento per anche molti anni, ma in una situazione di quella che noi chiamiamo ibernazione penitenziaria, dove effettivamente non sono in grado di poter arrivare ad accedere e elaborare le loro responsabilità, e ci ritroviamo poi scongelati all'uscita del carcere. Non era il caso di questo signore, da quello che lei mi sta dicendo, ma quando noi abbiamo cominciato a introdurre questo percorso di trattamento intensificato nel 2005, proprio per evitare questo meccanismo di ibernazione penitenziaria, dunque del rischio di recidiva per persone che hanno commesso questi reati, il nostro scopo era proprio lavorare su una prospettiva trattamentale analoga a quella che viene fatta in paesi nordamericani, nordeuropei, con una batteria molto intensa di lavori di gruppo centrati proprio sul reato, centrati sull'abilità sociale, la comunicazione, e in un certo senso con dei risultati che in questi anni ci hanno rassicurato sulla bontà di questo intervento, sì, soprattutto sull'importanza della replicabilità di questi interventi trattamentali, perché la pena fine a se stessa può essere effettiva, e cioè può essere dura e punitiva, ma in realtà poi bisogna renderla efficace. E anche da dire che non tutte le persone che seguono percorsi trattamentali immediatamente possono beneficiare. Noi abbiamo avuto, sì, purtroppo drammaticamente 8 recidive in questi anni di reati su 248 persone trattate. Purtroppo questo è un dato che, da una parte dico purtroppo, vuol dire che ci sono state altre vittime, e questo è il nostro scopo, è quello di evitare nuove vittime. Mi scusi, 8 che hanno a che fare con reati sessuali in genere, o solamente si sta riferendo alla pedofilia? No, io parlo di reati sessuali in genere, perché noi trattiamo nella nostra unità sia autori di reati sessuali su minori che su donne. Poi il termine pedofilia non è esatto, perché noi nel nostro paese abbiamo una realtà di una quantità importante, forse quella maggiore rappresentata nelle carceri, di reati su minori, che non sono definibili le persone che li hanno commesso come dei pedofili, nel senso che non è applicabile la categoria, diciamo, descrittiva della sindrome della parafilia pedofilica a tutti gli autori di reati sessuali su minori. Voglio dire, non tutti i pedofili commettono reati, nel senso che non tutte le persone che sono portatrici di questa parafilia mettono in atto poi queste fantasie, e non tutti i reati su minori sono messi in atto da pedofili. Anche questa è un'altra precisazione importante, perché è un tema complesso che richiede davvero un approfondimento rispetto, sì, alla conoscenza. Mi sembra di capire che questo è un ragionamento che lei sta facendo da un punto di vista puramente clinico. È chiaro che una persona che molesta una bambina di 6 anni, è proprio una persona in una condizione mentale normale, non è, mi scusi, poi è lei. È lei lo psicologo, il criminologo, però no? No, io sto parlando del problema in generale, nel senso che noi in questo paese abbiamo bisogno di un sistema della presa in carico di queste persone, di queste condotte, che chiaramente i fatti di questi giorni ci dicono non c'è ed è inadeguato, che ci permette di lavorare sulla prevenzione di queste condotte una volta che queste persone hanno finito la pena. In questo caso, nello specifico caso che lei mi chiede, io fatico ad esprimermi, perché siamo ancora in una fase di indagine. fatto. Sì, questo è chiaro, è ovvio. Anche se voi, e questo anche per correttezza. No, ma infatti non è che l'ho chiesto sul caso specifico, mi interessava più che altro un ragionamento generale, perché poi lo sa come quello che scrivono anche molti ascoltatori, al di là del fatto che, lasciatemela dire proprio brutalmente, lasciatemela dire, al di là del fatto che la cosa ha avuto meno eco mediatica di altre, per tutta una serie di motivi, a partire dal fatto che la bambina che è stata molestata era straniera e non era italiana, se no altrimenti sai anche i giornali che cosa avrebbero fatto, e quindi meno eco mediatica. Però al di là di questa specifica, quello che voglio capire io, ci sono molti ascoltatori anche che ci dicono, beh, insomma, in questi casi il tentativo di riabilitare non funziona, cioè è un tipo, per così dire, di fissazione che non esce altro che con, per esempio, classico esempio, la castrazione chimica. Cosa risponde l'esperto ad una valutazione di questo genere? Lei fa riferimento, mi ha fatto la domanda facendo riferimento a questo caso, dunque io torno su questo caso, visto che la sua domanda è partita da questo caso, anche se io dico che in fase di indagine la domanda sua andava chiaramente in questa direzione. Si tratta di quel caso specifico, se dovesse essere confermato quel caso a cui lei ha fatto riferimento, che ha seguito un percorso, si tratta di una situazione eccezionale con precedenti e segnalata abbondantemente dal percorso trattamentale. Cosa succede? Che molte di queste persone ibernate in carcere, se non affrontano un percorso trattamentale, difficilmente sono messe a contatto anche con la loro pericolosità, con quelli che sono aspetti di pericolosità che noi di fatti in questo caso specifico abbiamo dovutamente segnalato, e questo è estremamente importante, cioè quando si fa trattamento si fa diagnosi, si fa studio delle persone, si fa valutazione. Ma mi scusi, mi sta dicendo che in questo specifico caso era stata segnalata la pericolosità della persona all'uscita dal carcere? Non solo, ma è questo caso, perché io torno a dire, siamo in una fase di indagini, non posso più di tanto esprimermi. C'è una situazione di alto rischio di recidiva segnalata proprio perché c'è un percorso trattamentale che ha consentito di arrivare a questa segnalazione. Ma nel nostro paese, in Italia, questa è la realtà, non è previsto assolutamente che ci sia una presa in carico di situazioni di questo tipo dopo la pena per questi soggetti. Sì. Cioè noi, perché a un certo punto il tema è questo, si esaurisce la pena. Voi segnalate come persone l'hanno trattato, c'è un alto rischio di recidiva e nessuno se lo prende in carico dopo. Solo un sì o no, perché devo chiudere. Potrebbero essere applicate delle misure di sicurezza in maniera eccezionale, ma si tratta davvero di alcuni casi che abbiamo avuto nel passato per cui i magistrati effettivamente hanno ritenuto di farlo, o delle misure di prevenzione. In questo caso c'era una misura e comunque, nonostante la misura, purtroppo la presa in carico potrebbe non essere adeguata nella misura in cui sul territorio non ci sono risorse adeguate, sì, professionisti competenti, questo, per seguire queste situazioni. La ringrazio Paolo Giulini, grazie a Paolo Giulini, criminologo clinico, lavora al Centro Italiano di Mediazione Penale e ha lavorato appunto anche al carcere di Bollate. Grazie Giulini. Noi andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.